Ben arrivati nella mansarda del Dottor Pirates. Finalmente It di Stephen King ha la sua trasposizione cinematografica. Siamo nel culto più sfrenato. In tantissimi lo abbiamo amato avendo letto il libro. E poi vi ricordate i due film TV del 1990? A distanza di anni probabilmente possiamo dire che non fossero il top. Però Pennywise era veramente inquietante. Interpretato da un magistrale Tim Curry, è entrato nel nostro immaginario. Quando pensiamo al pagliaccio di It, pensiamo a come è stato raffigurato in quella serie TV. Il regista sarà Andrés Muschietti, a confidenza con l'horror, perché ha già diretto uno in particolare, Mama. Ma è curioso un fatto, perché il regista, prima di questo film, ha fatto un cortometraggio che porta lo stesso nome, che catturò l'attenzione di Guglielmo del Toro, ovvero uno dei più grandi registi visionari del nostro tempo, il quale ammise che nel corto vide la scena più paurosa mai apparsa su schermo. E direi che le credenziali ci sono. Altra cosa interessante di questo nuovo film è che Pennywise è interpretato da un attore giovanissimo, ma noi la cosa poco importa, perché con tutto il trucco che ha non penso che faccia differenza, e poi da quello che abbiamo visto dal trailer sembra veramente funzionare. Vedendo il trailer capiamo anche un'altra cosa: è stato preferito ambientare il film in un'epoca più moderna, più vicina a noi. Questo penso non sia un problema, perché quel che conta è che ci sia la lotta tra i bambini e Pennywise, tra il bene e il male, con gli adulti che non possono, non vogliono vedere. Alla fine l'essenza della cittadina, dipinta nel libro, non dipende dall'epoca storica in cui è ambientata. La potenza della memoria, i traumi infantili che lasciano segni indelebili, la bassezza umana nascosta dall'apparenza di una bella cittadina sono temi che vanno oltre il periodo storico. È inutile nasconderlo, le attese per questo film sono gigantesche, anche perché quando uscì il libro e il film TV, diviso in due parti, molti di noi erano bambini o giovani ragazzi, adesso siamo adulti, ma con una tremenda paura per i pagliacci. A settembre avremo il film al cinema in America, in Italia, chi lo sa. Parliamo comunque della prima parte, perché It è un'opera lunga. Il trailer è ottimo, ci ha fatto rivivere le tipiche atmosfere alla Stephen King, con la classica cittadina americana, e Pennywise si vede poco, ma da quel poco che si vede sembra veramente lui, come lo ricordavamo e come lo immaginavamo. Per cui è bello quando affiorano di nuovo queste cose dal passato, hanno un gusto particolare, io ci voglio credere, per cui dico pollice su.